il primo contatto a fuoco è avvenuto anticipato rispetto ai tempi, perché un elemento della popolazione civile si è avvicinato ai nostri correndo. Ha iniziato a fare un movimento con le braccia, fermi, fermi, ci sono gli insurgents. Gli insurgents che erano pronti già dall'altro lato della strada hanno capito che erano stati scoperti e hanno iniziato a fare fuoco ancora prima che i nostri entrassero in quella zona che viene definita killing zone. Questo è fortissimo perché significa che la popolazione in questo momento sta scegliendo per chi patteggiare, perché anche gli insurgents, quelli soprattutto i capi, pagano gli altri e con poche manciate di euro affittano, non comprano, affittano facilmente la manodopera. Quindi è un segnale fortissimo perché il nostro principale compito è quello di proteggere la popolazione a qualunque costo, quindi anche contro il fuoco degli insurgents.